E quindi diciamo ci sono disastri di Serie A e disastri di Serie B. Certo, quello che sta succedendo in Giappone probabilmente desta sicuramente un pericolo forse maggiore. Insomma, noi non è che poi lo sappiamo con certezza, anche perché non sappiamo neanche come si evolverà la situazione. Sta di fatto che quando i disastri toccano parti del pianeta che non facciano parte dell'Occidente sviluppato, non destano gli stessi allarmi e le stesse preoccupazioni. Laddove poi, insomma, sebbene di grande allarme si può sicuramente parlare nel caso giapponese, da noi invece continuano imperterriti a difendere il nucleare, a diciamo esprimere una irremovibilità rispetto a questa scelta intrapresa, che veramente insomma non è che si può parlare veramente di cocciutaggine, perché poi a parlare in realtà sono gli interessi che il nucleare cela, e quindi sono le necessità di profitto delle grandi multinazionali dell'energia nel nostro paese, basti pensare insomma all'Enel, oppure dei grandi costruttori interessati alla realizzazione degli impianti. Prima abbiamo fatto alcuni nomi, ma ce ne sono anche degli altri. Pensiamo insomma come ad esempio il Messaggero in questi giorni, giornale di un costruttore caltagirone, ha affrontato la vicenda con editoriali a dir poco scandalosi e sfrontati da parte di chi insomma appunto ha avuto la faccia tosta di dire che addirittura la situazione giapponese avrebbe rappresentato la prova del 9 di quanto le centrali nucleari fossero sicure. E questo però è il trend, insomma, perché lo fa il Messaggero, ma lo hanno fatto un po' tutti i giornali, perlomeno nelle prime 24-48 ore dopo insomma il terremoto e lo tsunami che ha investito il Giappone, dopo essersi accorti che c'erano i primi problemi ai reattori della centrale di Fukushima. E si è mantenuta questa linea per parecchi giorni, poi negli ultimi giorni insomma anche nei giornali generalisti più importanti, a cominciare dal Corriere, si intravedono diciamo così articoli di un altro tenore. Ma insomma, quanto abbiamo detto, cioè il fatto che nonostante le preoccupazioni enormi destate dalla presenza di una centrale nucleare sul territorio debbano di per sé porre a tutti e tutte l'esigenza, l'attenzione di rifletterci sopra, noi lo diciamo soprattutto per la nostra classe politica, ma in realtà evidentemente tocca anche il corpo sociale. Insomma, cioè, noi qui parliamo di mors tua vita mea, insomma, no? Laddove la morte che ci si augura e che si auspica, o meglio la sconfitta che ci si dovrebbe augurare, è quella degli interessi del cartello nuclearista, appunto la cui sconfitta rappresenterebbe sicuramente una sorta di inno alla vita, insomma, dato che il nucleare insomma non è altro che portatore di una logica mortifera, visto che le contaminazioni radioattive provocano la morte, visto che la stessa esposizione non solo alle contaminazioni ma alle stesse scorie insomma causano dei problemi, nonostante poi il parere di Veronesi, che si dichiara disponibile addirittura a dormirci in una stanza a deposito di scorie radioattive. Vabbè, contento lui, di certo insomma non è detto che, siccome è disposto a farle lui, queste scelte le debbano fare anche tutti gli altri. E dunque il discorso dovrebbe, la reazione dovrebbe, che dovrebbero suscitare le parole di chi sta al governo, non dovrebbe essere quella quieta e un po' acquiescente insomma a cui stiamo assistendo, ben altra dovrebbe essere la reazione da parte della popolazione. E invece così non è. Addirittura in Italia il dibattito procede lungo queste secche della politica italiana, in cui c'è un schieramento che si dice fermo e irremovibile nelle sue scelte, dall'altra parte invece uno schieramento che è formato da una parte, da una forza politica che di fatto ha promosso un referendum, sicuramente in modo strumentale, in quel caso anche per cavalcare altre questioni, perché poi le firme sono state raccolte anche per altri quesiti, quello dell'acqua, evidentemente cavalcando l'onda di un'azione, insomma un'organizzazione che era già partita, affidata ad altre mani, e dall'altra invece inserendo i propri discorsi, e cioè il quesito sul legittimo impedimento. Quindi la mossa di Pietrista è facilmente comprensibile all'interno di una logica politica più ampia. Dall'altra parte invece abbiamo un PD che si dichiara favorevole al nucleare di quarta generazione, e poi magari diciamo anche qualcosa su questo nucleare di quarta generazione, che praticamente è un nucleare che non esiste, cioè è una tecnologia che non esiste. Quindi questo è il livello del dibattito italiano, e a cui però non c'è una reazione decisa e importante anche da parte della gente, questo va detto. E invece questo non lo fa ad esempio la cancelliera tedesca Angela Merkel, che si è detta già insomma disponibile a rivedere i progetti di costruzione di nuove centrali in Germania, ha diciamo così avanzato l'idea di effettuare dei controlli sulle centrali, sugli impianti più vetusti. Ora non è che chiaramente la Merkel è peggio o meglio di chi ci sta in Italia, in Francia o in Inghilterra. Le politiche europee anche sul fronte energetico in modo o nell'altro si muovono nella medesima direzione. Fino a oggi l'Italia era il paese tra questi che si distingueva per aver diciamo respinto la scelta del nucleare. Cos'è che ci interessa sottolineare però? Che la Merkel questo tipo di annunci li fa perché sa che di fronte ha comunque una popolazione magari anche più così capace anche di reagire. E invece da noi evidentemente si ha la certezza di non scatenare reazioni, e questa è la cosa che più dovrebbe farci pensare, che ci dovrebbe far riflettere. Da noi si possono sparare le peggiori cazzate, insomma, senza che nessuno si scandalizzi, senza che nessuno faccia niente, e quindi si può anche avere così, come già abbiamo detto, il coraggio e la faccia tosta di dire quello che hanno detto in questi giorni ministri come Romano o la Prestigiacomo. Quest'ultima, anche lei come il PD, insomma, punta tutto sui fattori di novità racchiusi nella tecnologia di quarta generazione, annunciando che i reattori nucleari che si stanno progettando in Italia sono di quarta generazione. Ora, questo è il ministro dell'ambiente, ma vogliamo insomma renderci conto in che mani ci siamo capitati? Cioè, questo è un ministro dell'ambiente che si permette di dire una enorme bufala, perché in Italia insomma, ma anche nel resto del mondo, impianti di quarta generazione insomma sono ancora sulla carta, e semmai venissero realmente progettati, si parla di tempi futuri e futuribili, probabilmente semmai appunto ciò avvenisse, parliamo di tempi lunghi, almeno altri 20-30 anni, quindi forse entro il 2040 si saprà qualcosa in più, visto che già da tantissimi anni si parla di nuovi modelli di reattori di quarta generazione, ma che poi puntualmente insomma si arenano, viste le difficoltà sul campo, difficoltà che già hanno gli impianti di terza generazione, insomma, che sono quelli per l'appunto che invece verranno, si stanno progettando in Italia. Quindi noi abbiamo a che fare con un ministro dell'ambiente che si inventa le cose, che dice cose che sono fuori dalla realtà, nella convinzione comunque di non suscitare reazioni di alcun tipo. Base. Il tutto a Strike SPA, via Umberto Martini 21 a Casalbertone. Per info www.strike-spa.net oppure www.ondarossa.info. Sweet dreams are made of tea. I reattori invece che si stanno progettando in Italia sono quelli di tecnologia EPR, ne abbiamo già parlato insomma in passato da questi microfoni, chiaramente continueremo a farlo perché non basta mai parlarne, soprattutto nella misura in cui invece le notizie che passano sui cosiddetti canali di informazione mainstream sono per l'appunto insomma totalmente distorti. E dunque questi reattori EPR in realtà non è che siano così diversi dalla vecchia tecnologia, si tratta semplicemente di reattori che hanno magari alcune modifiche rispetto ai vecchi impianti, ad esempio rispetto agli stessi impianti giapponesi, che comunque fino all'altro giorno non erano ritenuti i più validi esempi di una tecnologia nucleare sicura. I reattori EPR che si stanno progettando qui da noi, abbiamo detto già tante volte che i progetti sono curati da diciamo interessi italo-francesi, perché a muoversi sono l'Enel e l'EDF, aziende entrambe una volta pubbliche e poi sottoposte a processo di privatizzazione, e la cui costruzione appunto dovrebbe essere affidata a questa partnership tra Areva e aziende controllate da Finmeccanica. Il diciamo prototipo di sicurezza di questo modello EPR è rappresentato dalla centrale di Olkiluoto in Finlandia. Ora pensate un po', insomma, cioè, noi parliamo di prototipi, quindi non si hanno dei modelli nei quali insomma si ha la certezza, la sicurezza di ciò che accade, ad esempio dal punto di vista proprio dei sistemi di prevenzione e di sicurezza. Non si hanno certezze proprio perché stiamo parlando di prototipi, quindi qui gli impianti che si stanno progettando sono 4, si parla però di prototipi, quindi si ordinano comunque modelli tecnologici che ancora non hanno a tutti gli effetti dato prova di funzionare realmente. Soprattutto il maggior prototipo, quello che rappresenterebbe il modello a cui diciamo far riferimento, che è rappresentato da questa centrale finlandese, ha subito una interruzione dei lavori. I lavori sono stati sospesi nel novembre del 2009 per una scelta così ritenuta giusta da l'insieme dei paesi interessati a questo progetto. Ci sta l'Inghilterra, ci sta la Germania. Dicevamo appunto un progetto sospeso, quello di Olkiluoto, perché? Perché ci sono stati proprio dei problemi al sistema di sicurezza. Tra l'altro, per rendere efficace, efficiente il sistema di sicurezza di queste centrali, di sicuro, sebbene poi ancora appunto non si sa come va a finire perché c'è per il momento questa impasse, ma di sicuro si sono fatti dei calcoli. Anche in questo caso in mezzo ci sta questa multinazionale Areva, calcoli che fanno aumentare il preventivo di costo per rendere queste centrali sicure da 2 miliardi del 2002-2003 ai circa 7 miliardi di euro di adesso. Badiamo bene, si tratta di costi non italiani. Pensiamo quanto invece questi costi, pensiamo la corrispondenza di questi costi nel nostro paese, laddove insomma tutto chiaramente costa di più, quantomeno dal punto di vista di questi progetti e dell'importazione di queste tecnologie. Basta pensare anche a quanto si moltiplica il costo delle linee sull'alta velocità, ad esempio, nel tempo. Una riprova lo abbiamo avuta con la Roma-Napoli, a cui hanno partecipato imprenditori di grande lustro e grande fama qui in Italia, alcuni anche romani, Caltagirone, tanto per dirne uno, e abbiamo assistito a un'ascesa dei costi impressionante delle linee della Roma, dell'alta velocità Roma-Napoli. Ecco, pensiamo agli effetti sui costi appunto riguardo una centrale nucleare, quindi immaginiamo che l'ascesa sia enorme. Quindi il problema, uno dei problemi principali è anche quello della totale diseconomia di queste centrali nucleari. Problema della diseconomia ancora maggiore laddove si calcola il fatto che comunque questi impianti non è che possono funzionare all'infinito, quindi già si parla che per essere realizzati, parliamo appunto quelli comunque di terza generazione rispetto ai quali ci sta questo prototipo finlandese, per realizzarli in Italia comunque si parla almeno di altri 10-15 anni, quindi presumibilmente facciamo finta nel 2020-2025. Dopodiché chiaramente insomma c'è anche un problema di ciclo della centrale stessa. Se poi facciamo i conti con il fatto che le riserve di uranio sono strutturalmente destinate a impoverirsi e a diminuire, ecco che viene fuori insomma la follia di progetti del genere, che davvero risultano anacronistici, diseconomici e folli anche dal punto di vista chiaramente della sicurezza. Insomma, un po' tutti gli elementi che il fronte nuclearista ci propina in realtà possono essere smontati e dovrebbero essere smontati, e si smontano anche con una certa facilità. Ci dicono ad esempio che in questo modo fermeremo la nostra dipendenza dall'estero, da questi cagnacci arabi insomma che stanno lì a così impedire uno sviluppo sereno del nostro paese riguardo le fonti energetiche, ma insomma non ci dicono invece che comunque la nostra dipendenza magari non di certo non cesserebbe, magari si sostituisce la dipendenza da petrolio dal petrolio e al suo posto chiaramente subentra quella dell'uranio, di cui il nostro paese non è un produttore, visto che nel nostro paese non ci sono riserve riserve minerali di uranio, visto che non ci sono impianti di arricchimento dell'uranio, e quindi dovremmo necessariamente rivolgerci all'estero anche in questo caso. Quindi davvero una marea di bufale quelle che vengono propinate sui giornali, sulla carta stampata e in televisione. E le bufale più grandi, comunque lo anticipavamo, sono state proprio dette scusate, all'indomani insomma del disastro giapponese. Una masnada di esperti che sono prontamente scesi in campo per difendere le loro scelte nucleariste, soprattutto per difendere i loro padroni, visto che comunque nella maggior parte dei casi si tratta di gente al soldo dei costruttori, al soldo degli industriali, e quindi costoro recitano la loro parte. Ora, senza andare, perché cioè, di esperti di questa materia ce ne stanno tantissimi, tutti esperti che dicono una marea di sciocchezze, ma noi non è che lo diciamo insomma chiaramente, perché cioè, chi vi parla chiaramente non è un ingegnere nucleare, ma insomma ad esempio per smentire la Prestigiacomo riguardo la realtà dei reattori di quarta generazione ci vuole ben poco insomma, o per smentire lo stesso PD che si dichiara favorevole ai reattori di quarta generazione davvero ci vuole ben poco, perché lo sanno tutti e lo dicono tutti che in realtà i reattori di quarta generazione ancora non esistono, e che i passi insomma per arrivare a questa tecnologia sono ancora lunghissimi, addirittura si parla di decenni, ma tant'è, ormai questa gente è autorizzata a dire e a fare di tutto. Ad esempio c'è questo professor Carlo Lombardi, professore di impianti nucleari al Politecnico di Milano, senior advisor della Fondazione Energy Lab dal 2008. Lui, questo signore, dice che la risposta a un terremoto simile, cioè quello giapponese, ha dimostrato la validità del criterio di progetto che sempre impone in ogni situazione lo spegnimento delle centrali, come di fatti è avvenuto. E non è una cosa da poco considerata l'eccezionalità dell'evento. Quindi ecco, anche questo signore, questo Carlo Lombardi, è sicuro del fatto che quanto successo in Giappone insomma dimostra la validità del criterio di progetto. Quindi non è successo niente, tutto è andato come previsto, dice Carlo Lombardi. Chissà da dove ha preso insomma le sue notizie, evidentemente l'unica sua fonte erano le note di minimizzazione che arrivavano dallo stesso Giappone, che poi prontamente sono state smentite nelle ore successive. Sentite invece come cambia l'opinione se invece ci si affida ad altri esperti. Anche questi sono esperti, però dicono una cosa opposta a quella che abbiamo sentito prima, proprio nettamente contraria. In questo caso Masashi Goto, in questi giorni ne abbiamo sentito parlare, questo nome è riecheggiato un po' dappertutto perché è un ex progettista di centrali nucleari che durante una conferenza stampa ha accusato il governo giapponese di aver nascosto informazioni importanti sulla situazione degli impianti danneggiati dal terremoto. Queste dichiarazioni poi sono state riprese dalla BBC. Secondo Goto, per il Giappone si prospetta una crisi gravissima. Finora il governo giapponese ha detto che un'eventuale fusione non porterebbe al rilascio di dosi significative di materiale radioattivo. Goto risponde: i reattori di Fukushima sono sottoposti a aumenti di pressioni ben oltre i livelli previsti quando sono stati costruiti. Ci sarebbe il grave rischio di una esplosione con materiale radioattivo sparato su un'area molto vasta, ben oltre l'area di evacuazione di 20 km imposta dalle autorità. L'esperto nucleare ha accusato il governo di nascondere deliberatamente informazioni vitali e dice: non è stato detto abbastanza su come è stato ventilato l'idrogeno. Goto ha anche descritto come altamente inconsueto e pericoloso l'uso dell'acqua di mare per raffreddare i reattori di Fukushima. Sappiamo insomma che notevoli problemi appunto si sono verificati proprio nella fase di raffreddamento, infatti. E poi Goto descrive lo scenario peggiore, e cioè la fusione del nucleo, che potrebbe verificarsi in caso di caduta delle barre e il loro mescolamento con l'acqua. La reazione sarebbe un'esplosione di materiale solido, che l'esperto descrive come un vulcano che diffonde materiale radioattivo, un'emissione benefica che potrebbe essere potenziata e diffusa dal vapore, o una esplosione dell'idrogeno possono disperdere le scorie oltre 50 km. Un fallout molto esteso a cui si potrebbe aggiungere l'azione dei venti anche verso il Pacifico. Goto conclude paventando il rischio di una reazione a catena in uno scenario tremendo. Tutto rischia di essere moltiplicato, ci sono molti reattori nella zona, ci potrebbero essere molte Chernobyl. So I suggest you take a rest. So if you stand in my way, I'ma have to spray. Learn that if you come against me, son, you're gonna have to pray. Since back in the day I held the weight and kept my head up. They wanna see the guard catch an L, it's all a setup. I give no man a thing power over me. Why these niggas so jealous and looking sour? E quindi vedete insomma che le opinioni cambiano diametralmente, e allora verrebbe da chiedersi: ma insomma, a chi dobbiamo dare retta? Se fossimo persone sensate, dotate di un minimo di buonsenso per l'appunto, chiaramente a fronte del fatto che ci sono dei rischi, non credo insomma che valga la pena assumerseli pur di far fruttare profitto alle imprese multinazionali dell'energia o alle imprese costruttrici degli impianti nucleari. Soprattutto il gioco non vale la candela se pensiamo che tanti dei consumi per i quali c'è bisogno di un potenziale energetico così vasto sono in realtà consumi indotti, cioè l'abbiamo sempre detto. Poi in realtà l'errore che si compie in questi casi è anche quello di stabilire questa alternativa secca tra le rinnovabili e il nucleare, quando poi non si aggredisce realmente insomma il modello di sviluppo che fa chiaramente da sfondo a tutto questo dibattito insomma su l'energia nucleare o le diverse fonti di energia. E questa è la questione chiaramente principale, centrale, di cui poi nessuno si occupa. Wanna mess with the head start, the best yet. I'm nice like that, so good. So I suggest you. E allora un altro che da noi si è distinto particolarmente già insomma da un sacco di tempo, ma in particolare in questi giorni per le cavolate sparate, è chiaramente Chicco Testa, che oggi è diciamo uno dei maggiori sostenitori dell'energia pulita nucleare, e chiaramente uno presidente del forum sull'energia. Chicco Testa, insomma, l'altro giorno lo abbiamo visto in una trasmissione televisiva sbracciarsi e sudare sette camicie per convincere i telespettatori della bontà del nucleare, dicendo un sacco di sciocchezze più o meno, insomma, sulla falsa riga di quanto andavamo leggendo prima, cioè le dichiarazioni di questo presunto esperto che si chiama Carlo Lombardi, professore di impianti nucleari al Politecnico di Milano, e cioè che per l'appunto il Giappone avrebbe rappresentato proprio la situazione grazie alla quale si è potuto capire fino in fondo quanto sono sicuri questi impianti. Cioè, questo è quello che dice questa gente, no? Fino adesso in tutto il sistema energetico giapponese le centrali nucleari sono quelle che hanno retto e si sono arrestate. Queste sono le parole di Chicco Testa l'altro giorno in televisione. Addirittura diceva: ma come, non ci preoccupiamo di quello che è successo per la raffineria che è esplosa, invece andiamo a cercare, insomma, il pelo dell'uovo, così speculando, no? Speculando, strumentalizzando quanto successo, cioè il disastro dello terremoto e dello tsunami, per poi aggredire la questione del nucleare. E quindi diceva: le centrali nucleari hanno retto. Quindi il modello del nucleare è un modello che va assolutamente bene anche dal punto di vista della sicurezza. Questo signore, chiaramente, come lo si può definire? Una banderuola, forse, visto che insomma Chicco Testa è lo stesso che un tempo, al contrario di quanto fa oggi, preoccupava di esternare la sua contrarietà al nucleare. Era anzi uno dei maggiori artefici, chiaramente parliamo di personalità interne al panorama istituzionale dei partiti, cioè Chicco Testa era un esponente del PC, poi è stato presidente di Lega Ambiente, e comunque, insomma, per anni, cioè dagli anni 80 fino a qualche anno fa, era uno dei più convinti sostenitori tra le fila degli ambientalisti di una scelta antinuclearista, e dunque verrebbe da chiedersi: ma perché io devo dar retta a uno che un giorno è un antinuclearista e poi un altro giorno al contrario è un convinto sostenitore del nucleare in Italia? È cambiato qualcosa? Cioè, è cambiato qualcosa nelle convinzioni di questa persona, oppure sono cambiati, insomma, è cambiato il libro paga su cui è iscritto, sono cambiate le persone che lo foraggiano? Evidentemente, insomma, è questa la domanda più pertinente, che tra l'altro poi ci viene anche da un articolo che è apparso in rete in questi giorni, firmato da Diego Novelli, anch'egli esponente passato del PC, è stato anche deputato Novelli, che scrive questo articolo: le certezze di Testa sulle centrali nucleari. Adesso qualcosa andiamo a leggerla. Radio Onda Rossa. Visita il sito www.ondarossa.info. Novelli racconta di un giovane Chicco Testa che interviene in un congresso nazionale del PC in corso a Milano nel 1983, del quale insomma Testa rappresentava, nel quale Testa rappresentava il delegato della federazione milanese a questo congresso. Diego Novelli era designato a far parte della commissione politica, fu incaricato di redigere la mozione conclusiva e quindi ha chiaramente bene in mente ancora lo svolgimento del dibattito, le sue conclusioni, la discussione che si ebbe in quell'occasione. Infatti la ricorda come una discussione molto ricca e stimolante, però insomma quello che lo colpì fu proprio l'intervento improvviso di questo giovane delegato che prese la parola per iniziare un intervento infuocato, un intervento che mirava a colpire tutto il dirigente del partito, ora sto leggendo, tutto il gruppo dirigente del partito che si trastullava su questioni di poco conto. Quel delegato era Chicco Testa, il quale con toni drammatici sostenne che il nostro pianeta non avrebbe avuto vita lunga se non si affrontavano rapidamente e radicalmente le questioni dell'ambiente per la salvaguardia dell'acqua, dell'aria, dell'agricoltura, pena la lenta ma progressiva estinzione del genere umano. Nell'apocalittico intervento Testa pose come priorità la battaglia contro l'energia prodotta dalle centrali nucleari, criticando il partito di non essersi impegnato a fondo su questa vitale questione. Il modo e il tono un po' melodrammatico usato da Chicco, nonché la visione del futuro del mondo delineata nel suo intervento, suscitarono qualche brusio nella sala. Giancarlo Paglietta, presente ai lavori della commissione, si rivolse a Testa con una bruciante battuta: «Dimmi, compagno, pensi che possiamo stare tranquilli ad essere in grado di tornare a casa dopo il congresso?» Testa rimase per un attimo interdetto, poi rispose con sarcasmo con queste parole, dice Novelli, che ben ricordo: «Siete tutti degli irresponsabili. Lo sapete che non esistono garanzie sulla sicurezza delle centrali nucleari anche nel futuro, perché un evento straordinario della natura può metterle in pericolo da un momento all'altro?» Questo era Chicco Testa nel 1983, dunque da Lega Ambiente alla presidenza dell'Enel, oggi del Forum Nucleare. Evidentemente qualcosa è cambiato, noi crediamo che siano cambiati insomma coloro che manovrano questi personaggi, queste personalità. Evidentemente ora Chicco Testa è legato a ben altri interessi, a ben altri affari, e chiaramente insomma ha assunto una posizione diametralmente opposta a quella difesa non più di 20-25 anni fa. E sicurezze che invece non si hanno, come per l'appunto diceva lo stesso Testa tanti anni fa, proprio perché cosa succede all'interno di un reattore non si può prevedere. Insomma, le persone più accorte in questi giorni ce lo stanno dicendo, il rischio che si corre, anche perché magari le centrali sono esposte a sollecitazioni come nel caso giapponese, e come potrebbe anche rivelarsi disastroso in un ipotetico caso italiano, visto che il nostro territorio è comunque un territorio sottoposto a sollecitazioni di carattere sismico. Ecco, i rischi, le conseguenze insomma non sono sempre calcolabili, cioè le catastrofi atomiche non si possono diciamo prevedere, soprattutto non possono essere corrisposte ad un modello predefinito, anche perché insomma è difficile sperimentare tutti gli accorgimenti che si possono attuare in una catastrofe atomica, se non nel momento stesso in cui la stessa accade, nel momento stesso in cui ciò avviene. Dunque il nucleare è davvero una follia, abbiamo detto tempi lunghi di costruzione, risorse che non sono per nulla infinite, un ciclo di durata che non può superare un determinato numero di anni, comunque limitato, un funzionamento che non offre alcune garanzie rispetto ai sistemi di sicurezza. Ci siamo scordati la vicenda delle scorie, dello stoccaggio, anch'essa importantissima. Pensiamo solo al fatto che nel nostro paese abbiamo problemi nel smaltimento dei rifiuti urbani, pensiamo invece a quanto accade rispetto invece alla gestione dei rifiuti tossici industriali. Le navi dei veleni chiaramente non sono una nostra invenzione, ma una realtà denunciata da tanti compagni che chiaramente si sono mossi per farla uscire fuori. Ecco, pensiamo quello che può succedere nel caso invece dello stoccaggio delle scorie nucleari. Quindi insomma non è che ci inventiamo qualcosa, sono problemi che stanno sul campo, problemi reali, e tutto dovrebbe portarci a dire che il nucleare è una vera e propria follia. Anima, dunque abbiamo detto tutte queste cose. Chiaramente insomma, qual è la difficoltà che si scontra? La difficoltà che si scontra è che un movimento antinucleare purtroppo in Italia non c'è, perlomeno c'è stato in passato, ma non ci sta oggi. Si tratta chiaramente di non solo prenderne atto, questo evidentemente è stato già fatto, ma invece di cercare di preparare un'opzione alternativa, cercare insomma di costruire dibattito critico affinché invece la gente si renda conto della follia che stiamo supportando e della follia insomma a cui stiamo andando incontro. Una manifestazione nazionale è quella del 26 marzo, manifestazione che chiaramente è stata indetta soprattutto dai forum sull'acqua pubblica, ma che tra le sue parole d'ordine è anche il no alle centrali nucleari, manifestazione che si svolgerà a Roma appunto il 26 marzo. Ci sono poi anche altri appuntamenti, ne segnaliamo uno, una iniziativa contro il nucleare. L'appuntamento è lunedì 21 marzo alle 15:30 alla fermata Gemelli del treno Roma Viterbo. nucleare, ricerca di potere, non lo vogliamo e basta. È una iniziativa contro il nucleare che si svolgerà in occasione di un meeting che di anno in anno si svolge e che quest'anno è dedicato proprio all'energia nucleare. Leggiamo il testo di questo appuntamento che affirma di anarchici e anti-autoritari. Dopo diversi anni in cui la questione nucleare sembrava chiusa, i politici, i burattinai degli industriali, della Confindustria, del capitalismo in generale, l'hanno apertamente rimessa in campo con la proposta di costruire 4 nuovi centrali di terza generazione. Ci viene dunque imposto, in nome del progresso e dello sviluppo, di acconsentire alla distruzione della natura e delle nostre vite per permettere agli industriali di avere energia per alimentare un ulteriore sfruttamento. Abbiamo ancora negli occhi le scene apocalittiche di recente terremoto in Giappone, con le esplosioni di ben 3 reattori, la fuoriuscita di vapore radioattivo contaminante, il serio rischio di fusione del nocciolo. Tradotto in parole comprensibili, la calasta catastrofe totale. Il falso mito della sicurezza della tecnologia nucleare è fragorosamente crollato ancora una volta, come se non fosse bastata Chernobyl 25 anni fa o le centinaia di cosiddetti incidenti passati quasi sotto silenzio. L'ennesimo business, l'ennesima nocività, per cosa? Per avere beni di consumo che vorrebbero farci credere irrinunciabili o orrendi centri commerciali accesi giorno e notte. Anche nella vicina Francia, nella centrale di Flamanville, dove è in fase di costruzione un reattore dello stesso tipo, già obsoleto, di quelli che l'Enel vorrebbe impiantare in Italia, si contano più incidenti che giorni di cantiere. In tale scenario si inseriscono le operazioni mediatiche con cui cercano di farci il lavaggio del cervello, come gli spot in TV, i forum su internet, i cartelloni per strada e i convegni, grazie a cui possono parlare nei telegiornali di quanto è diventato sicuro e necessario il nucleare. Dal 20 al 24 marzo si terrà qui a Roma la 15ª conferenza dell'RFM, Research Reactor Fuel Management, organizzato dalla European Nuclear Society in collaborazione con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica delle Nazioni Unite. Presso il centro convegni Pleiadi. Nell'hotel contracted by Marriott Rome Central Park Hotel, qui verranno presentati i lavori di 150 scienziati inerenti la ricerca sul nucleare, in particolare sull'impiego dei reattori. Per ribadire il nostro essere contro il nucleare, la società del consumo che ce lo spaccia come indispensabile, bisogna agire adesso, in prima persona, senza aspettare un referendum che assorbirebbe le spinte di lotta prima ancora che si esprimano. Dunque appuntamento lunedì 21 marzo alle 15:30, fermata gemelli del treno Roma Viterbo, un presidio organizzato da questi compagni, e chiaramente una iniziativa che si muove sulla battaglia antinucleare. È giusto quindi dare l'importanza che merita, soprattutto perché poi insomma del resto non si muove tantissimo, e dunque lo facciamo volentieri. Allora, visto che tra pochi minuti si è fatto mezzogiorno, insomma, l'abbiamo fatta anche fin troppo lunga, ora cambiamo decisamente argomento, cerchiamo insomma di metterci in contatto con Milano per parlare un po' delle iniziative antifasciste in ricordo di Dax Cesari.